e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. La solitudine è come una lente di ingrandimento. Se sei solo e stai bene, stai benissimo. Se sei solo e stai male, stai malissimo. Giacomo Leopardi. Deborah aveva conosco visto il personaggio. Lui aveva già messo nero su bianco quello che la scienza ha dimostrato oggi. Sì. C'è uno studio fatto dall'Università di Chicago secondo cui la solitudine indebolirebbe le difese immunitarie. Insomma, chi è da solo si ammala di più. Per fortuna noi non siamo mai da sole. Deborah, tu hai sempre me, io sempre te. Poi sì, ci fanno compagnia i nostri ascoltatori. Scambio reciproco di energia che fa sempre bene. Che sistemone immunitario. Cioè, abbiamo degli anticorpi coi muscoli. Ma per chi si sente solo, l'invito è quello di ascoltare le amiche del mattino. Noi saremo felici di allargare la nostra famiglia, ma solitudine a parte, non è solo questa condizione a mettere in difficoltà il nostro sistema immunitario, che in questo periodo dell'anno è messo a dura prova dall'attacco di virus influenzali. Anche loro amano la compagnia, non vogliono stare da soli, perché se anche gli esperti ci dicono che la vera influenza arriverà agli inizi di gennaio, sono già 200.000 le persone colpite da quelle che possiamo considerare le cugine dell'influenza. Allora noi oggi con il nostro esperto daremo consigli per non essere influenzati dall'influenza e dalle sue cugine. Voi che cosa fate? Usate i rimedi della nonna, maglietta della salute, cappello, sciarpe e guanti, fate il pieno di vitamina C, avete cercato in qualche modo di cambiare un po' la vostra dieta, la vostra alimentazione quotidiana, utilizzate degli integratori. 800 24 00 24 per dirci se avete già beccato l'influenza, se temete di riprenderla o per raccontarci insomma come il vostro sistema immunitario si comporta. Potete naturalmente anche raccontarci qual è il vostro tallone d'Achille, il raffreddore e il mal di gola. Ieri abbiamo proprio parlato di tutti i dolori articolari, esatto. Oggi ci occupiamo di influenze dintorni. Chi viaggia molto, secondo te, sui mezzi pubblici si ammala un po' di più? È un pochino, alto rischio contagio. Sì, sai, perché sveleremo questo. Si chiamano malattie da raffreddamento, ma eccolo non è là. Proprio solo il freddo a allora, farle arrivare. Mi rivolgo agli ascoltatori per la parte di denari. Pendolari, siete dei viaggiatori saltuari oppure viaggiatori che naturalmente percorrono lunghe tratte frequentemente? In entrambe le situazioni vi sarà capitato di subire un ritardo. Allora raccontateci qual è il ritardo ferroviario che vi ha coinvolti e che non dimenticherete mai più. Perché? Dove stavate andando? Per quanto siete rimasti fermi, che disagio vi ha causato? Avete perso un appuntamento importante sul piano? Avete trovato una fidanzata? Perché può anche essere andata bene, non è mica detto che sia proprio andata male. Allora, perché ne parliamo? Perché da qualche giorno sono entrate in vigore alcune novità nella procedura per chiedere rimborsi e indennizzi in caso di ritardi e disagi. Trenitalia ha ridotto da 3 giorni a 24 ore il tempo per chiedere l'indennizzo per il ritardo o il bonus per mancata climatizzazione. Anche questo è importante, anche per la salute, tra l'altro. Noi ne parleremo con diversi esperti rispondendo alle vostre domande, ma in questi giorni così delicati coglieremo anche l'occasione per informarvi sulle misure di sicurezza messe in atto nelle tratte ferroviarie italiane in seguito all'emergenza terrorismo. Ci sono nuove procedure alle quali potremo essere sottoposti, tempistiche particolari, lo capiremo insieme a partire dalle 11.15. Io non ne posso già più. Che esagerata, sei la solita. Quando fa caldo perché fa caldo, quando fa freddo perché fa freddo. In estate si suda, in inverno ci si ammala. Ma basta anche tu, dimmi che non ci sono più le mezze stagioni e chiudiamola qui. No, bello mio, guarda che l'inverno è una iattura per tutti. Tutto questo freddo fa ammalare. Da me in ufficio i soliti sono già in malattia e noi sgobbiamo per loro e poi le giornate sono così grigie, così corte, mi deprimono. Ma scusa, tu vedi qualcuno sorridente in giro? Sono tutti intirizziti. Vuoi mettere quando c'è il sole in estate? Sì, va bene, ma tu la metti giù troppo dura. Possibile che l'inverno ti dia tutti questi problemi? A me il freddo piace, anzi, ti dico di più. Secondo me fa bene. Tempra, irrobustisce, rigenera. Quanto alla luce, quella invernale così discreta evidenzia meno i difetti e fa venire voglia di coccole. In quale dei due profili vi riconoscete? 800 24 00 24, raccontatecelo. Beh, ogni stagione ha i suoi acciacchi. Ieri abbiamo parlato di dolori articolari e noi oggi invece cercheremo di occuparci dell'influenza e delle forme simili influenzali. Ma è davvero sempre colpa del freddo? Giro subito la domanda al nostro ospite, il dottor Attilio Speciani, medico specialista in allergologia e immunologia clinica, autore tra l'altro di Influenza e malattie invernali, naturalmente protetti. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Io viaggio in moto e quindi anche se fa freddo basta stamparsi un sorriso all'inizio della giornata e il freddo te lo paralizza lì e quindi sorridi tutto il giorno e viene bene, giusto? Fortifica andare in moto. Fortifica, sì, sì, assolutamente. Lei è un po' di questa tesi, dottor Speciani. Ah, sì, io sono assolutamente dell'idea, in tutte le mie comunicazioni dico ad esempio che anche l'attività fisica durante l'inverno va fatta evitando, perché c'è un maggiore inquinamento, proprio di buttarsi nello smog più pieno o dietro ai tubi di scarico delle autovetture. Però riuscire ad andare anche col freddo, ben coperti nel modo corretto, a fare l'attività fisica adeguata, ci consente davvero, c'è un'azione di stimolo sul sistema immunitario e difensivo. E poi prima questa battuta di Deborah sulla ma quando vai in autobus ti ammali di più o di meno? Allora, se uno improvvisamente va sull'autobus per la prima volta nella sua vita, magari si ammala perché incontra un nugolo di batteri, virus e cose di questo genere. In realtà l'abitudine a un contatto con i batteri tende generalmente a fortificare. Quindi, è una sorta di vaccino, ma possiamo dire così. È un vaccino spontaneo. E un altro vaccino è il bacio. Assolutamente, quello fa proprio molto bene, devo dire, sì. È documentato, allora, non sono di parte. È documentato e ce lo racconterà. Stiamo raccogliendo, e voi naturalmente dovete darci una mano, gli ingredienti della ricetta per non beccarsi l'influenza. 800 24 00 24, cercate di raccontarci che cosa fate. Ma se invece l'influenza, puntualmente influenza e sue cugine vengono a trovarvi, cercate di mettervi in contatto con noi perché qualcosa si può fare, dottor Speciani. Sì, assolutamente. Tra l'altro io sono un fautore in tutte le mie indicazioni sulla prevenzione di tipo anti-influenzale eccetera, e su quelle che in questo momento non è assolutamente influenza, quindi sono dei paramyxovirus, dei virus di tipo diverso, le cugine. Io le chiamo malattie invernali globalmente. Sì. Allora, il contatto con questi tipi di reattività, di malattie del raffreddamento, in realtà attiva in un soggetto sano, attiva la produzione di interferone e quindi poi l'attivazione di cellule che si chiamano natural killer, fantastiche, dai, già il nome la dice bene, che quindi portano ad esempio a difenderci da malattie tumorali, malattie degenerative. Quindi io sostengo sempre che durante l'inverno, se uno si fa una serata in cui si sente classicamente i sintomi da influenza o parainfluenza che sia, e si fa una notte in cui dorme un po' di più, in cui magari un pochettino sudicchia, sì, poi riprende, cioè riesce a fare in maniera attenuata una forma di questo tipo, e lo fa quando è in buona salute, questo gli fa del bene per il resto della sua vita, non per il resto dell'inverno. E quindi io sono uno che tifa per le mini influenzine. Le mini influenze, vedi? Tu le fai le mini influenze? Ma secondo me sì, ne faccio diverse in piedi venendo comunque al lavoro. Mediamente io e te siamo due bei torelli dal punto di vista della salute, insomma. E l'influenza spesso arriva proprio nel weekend. Uno molla, sì, un po' la tensione. Quello è vero, no, io ce l'ho quella della vigilia di Natale, statisticamente provato. Tre linee di febbre il 24, non me le toglie mai nessuno. Nell'attesa di Babbo Natale, anche noi l'aspettiamo. È da agitazione emotiva. Ma tu l'hai fatto apposta per lanciarmi l'assist per parlare della nostra favola a proposito di Babbo Natale? Se no, che Deborina sarei, sempre qua al tuo servizio. Raccontaci. Allora, devo fare io? Dal primo di dicembre, esatto. Cuore Denari invita tutti gli ascoltatori a trasformarsi in scrittori di Natale, per cui con la collaborazione del nostro grandissimo amico Andrea Vitali, che ci lancerà un incipit di una favola di Natale, voi sarete invitati a completarla e così dentro Natale, esatto, avremo la super favola natalizia. La super favola che scriveremo proprio giorno dopo giorno, naturalmente coinvolgeremo magari anche il dottor Speciani, giorno dopo giorno scriveremo questa favola di Natale, quindi rizzate le antenne e tenetevi pronti anche per raccogliere la ricetta per potenziare il nostro sistema immunitario. Questo è un po' l'obiettivo della puntata. C'è la solita formula che viene ripetuta, no? La formula segreta per un sistema immunitario, no? Sempre vivace e attivo, 0, 5, 0 che sta per 0 sigarette. Perché, dottor Speciani? Perché noi abbiamo un sistema bellissimo interno. Io sono un ex fumatore, quindi questa vita, questa condizione l'ho vista, l'ho vissuta su di me. E normalmente uno tende a dire, vabbè, anche quando poi inizia a ridurre, dice, ma tanto fumo poco. In realtà basta una sigaretta per paralizzare per circa 20-24 ore le ciglia vibratili, che è un termine simpaticissimo, devo dire. Però sono tutti quei peluzzini che abbiamo dentro, trachea, polmoni, eccetera, che muovono il catarro in una parte o dall'altra. Insomma, se cade dentro un virus o un battero, dicono, cosa fai tu qui? E cercano di farlo uscire. Se invece uno fuma, niente, resta lì, fermo, paralizzato, e quindi i virus e i batteri che entrano dicono, che spazio comodo, e ci si insediano simpaticamente. Quindi zero sigarette. Fine. Poi abbiamo 5, che sono le porzioni di verdura e frutta. Non bellissimo, a caso, tutte e due. Caso, sì, ha detto verdura perché, devo dire, ci avviciniamo al Natale, e la frutta, abbiamo della frutta ottima, fantastica, ricca di vitamina C naturalmente, quindi dai kiwi alle arance, agli agrumi. E io non dimentico i cachi, che sono tutti, alcuni dicono, ma ingrassano i cachi. Grassi, i cachi hanno dentro delle componenti, oltre ad essere dolci e buonissimi, hanno dentro delle componenti di vitamina A, che è un altro difensore e stimolatore del sistema immunitario. Però è vero che avvicinandoci a Natale è più facile che la gente ingrassi, messa su qualche chilo, che non invece, e non è colpa dei cachi, immagino, e non solo dei cachi. Quindi se uno in realtà mangia, per favore, un po' di sedani, carote, carciofi e cose di questo genere, forse tutto sommato è un po' meglio, E poi ci sono i famosi 30, che stanno per i 30 minuti di attività di attività fisica. Basta una camminata, no? Ma sì, che basta, perché fa freddo per tutti i motivi del mondo. E poi io devo dire che vado a correre al mattino presto, in realtà qualche bestemmia la tiro, in modo ovviamente fornito ed elegante, però qualche imprecazione al mattino quando inizio a correre intorno alle 6:10 viene. Poi dopo però, quando finisco alle 7:10, è bello, bellissimo. Alle 6:10? Sì. Però, pensa tu, che temperatura trovate, allora, in questi giorni? 2 gradi, 1 grado. Così si è scaldato il virus. Sì, non si scalda. Allora, abbiamo 2, 4, 6, sì. 8, 9. È un altro numero. Brava. Non è un numero magico, però, perché sarebbero 8 le ore di sonno suggerite per completare un po' la ricetta del potenziamento del sistema immunitario. Sono 9 invece. I libricini, controllare il peso attivando il metabolismo, che il dottor Speciani ci ha portato oggi qua in studio. E allora io vorrei darli, se voi siete d'accordo, intanto vorrei lanciare le informazioni sul traffico, ma la persona che chiamerà naturalmente il nostro numero verde, dopo invece le informazioni sul traffico, vi dico che cosa dovete fare per ricevere a casa, attivare il metabolismo del dottor Speciani. Tra poco. Nuova Audi A4. Scopritela negli showroom Audi e su audi.it. Vi presenta Cuore e Denari. Oh, terribile raffreddore! Lo senti o no? Sì. Certo che lo senti. Senti, continuo a starnutire, non sono granché sveglia. Sto prendendo echinacea e vitamina C e dormo praticamente 24 ore al giorno e ho pure la febbre. Eccoci qui che siamo tornati insieme oggi, rimedi e consigli per non essere influenzati dall'influenza e dalle forme parainfluenzali. Ci aiuta il dottor Attilio Speciani, con il quale stiamo cercando di allenare il nostro sistema immunitario. Lo abbiamo fatto utilizzando una formula fatta di 4 numeri, 0, 5, 30 e 8, 0 stanno, 0 sigarette, 5 porzioni di frutta e verdura. La domandona, ma cosa vuol dire la porzione? Ci chiedono gli ascoltatori al 349. 5 di verdura, 5 di frutta, insomma. E quanto sono, saranno 1 chilo di mele o basterà una mela? Dottor Speciani, perché voi non vi spiegate bene. Certo, allora, mangio una carrettata di insalata, 3 foglie, come devo organizzarmi? Dunque, direi che il punto focale, la risposta a questa domanda viene espressa dalla struttura fisica delle mie due persone che mi sono qui davanti. Loro sono bellissime, magrine, asciutte, bellissime, quindi oh, grazie, le loro 5 porzioni possono essere ridotte, ma io che peso credo loro due messe insieme, a quel punto ho bisogno quantomeno di un triplo di razione. Quindi in realtà è individuale. La logica è, se io penso ad esempio a un'immagine che usiamo spesso di dividere il piatto in 3 quando uno mangia, e quindi deve essere 1/3 fatto di proteine, 1/3 di carboidrati, quindi riso, pasta, pane, eccetera, 1/3 di frutta e verdura. La dimensione inizia già a posizionarsi. Quando uno ha quel tipo di forma, sa che nel corso della giornata deve mangiare un diciamo 4-5 volte quel tipo di immagine, il rapporto frutta e verdura. Ecco, perché a non consumare in quantità adeguata frutta e verdura si rischia, ce lo spiegherà il dottor Speciani tra poco, ma io devo dare come si chiama quando tu incarichi una persona, non mi viene il termine, insomma noi vogliamo un compito. Brava, cosa devo mangiare per questi vuoti di parole? Ma io credo che i broccoletti, che sono quelli di cui parliamo tra poco, siano la cosa più indicata. Allora vado di broccoli. Intanto voi dovete, per ricevere a casa il libro sul metabolismo, preparare una ricetta con 4 ingredienti, 2 cose che fate per potenziare il sistema immunitario e 2 cose che cercate di evitare. Stop. Giusto? Fantastico, bellissimo. 4, se poi ve ne viene in mente qualcuna di più. Mariano, buongiorno, da Latina. E poi abbiamo Fabio dalla provincia di Livorno. Mariano, buongiorno a lei. Sì. Allora, io intanto mi riconosco nel profilo invernofilo, diciamo. Sì. Mi piace più l'inverno perché tollero poco il caldo estivo. Sì. Sono un ex fumatore anche io e da quando ho smesso di fumare io praticamente non mi ammalo quasi mai d'inverno, se non nei rarissimi casi. Prima mi succedeva spesso che tutti gli inverni prendevo un'influenza o due. Invece da che ha smesso, vede, ha ragione il dottor Speciani, i nostri ascoltatori scrivono evviva il dottor Noce ormai. Quindi Mariano, lei ha smesso di fumare, il suo sistema immunitario ci ha guadagnato, ma aggiunge qualcosa? Sì, consumo agrumi quando posso, durante il giorno, perché a parte che è un frutto particolarmente tipico invernale, ma è anche gradevole da consumare. Certo. Bravo Mariano, avanti tutto allora. Dottor Speciani, vitamina C importante e aiuta è molto importante le malattie del raffreddamento. Perché è supporto. Devo dire, su questo tra l'altro c'è una discreta confusione a livello generale, perché vengono dati limiti individuali per quantità di vitamina C. Un anno si dice che servono 80 mg al giorno, l'anno dopo 160. Insomma. E questo perché chi in realtà poi si nutre di vitamina C, con dosaggi fino a un grammo e mezzo al giorno con tranquillità, ha degli ottimi vantaggi e dei benefici. La vitamina C è utile perché aiuta l'azione disintossicante, ad esempio da sostanze inquinanti, non solo dal fumo, supporta la capacità dell'organismo, diciamo, di entrare, ogni volta che si entra in un'azione di combattimento contro virus o batteri si lasciano scorie e la vitamina C riesce a consentire di eliminarlo. Assolutamente in modo molto positivo. Questo lo fanno anche i broccoli, devo dire, è proprio uno degli elementi più forti delle crucifere in genere, quindi broccoli, cavoli, cavoletti, cavolini di Bruxelles, che hanno dal punto di vista della capacità difensiva durante l'inverno un'azione potente. Infatti uno degli integratori che uso come anti-influenzale è proprio un prodotto a base di concentrato di broccolo italico, che ha questa funzione potente di attivazione del sistema immunitario a dosaggi sufficientemente equilibrati. E quindi io dico questo. Tra l'altro a me fa sempre un piacere estremo pensare a come la natura sia, come dire, saggia, perché in ogni parte del mondo, in relazione a quando c'è il massimo delle malattie da raffreddamento, certi tipi di malattie, ci sono i frutti che di solito aiutano a combatterlo. La vitamina C non ha dentro solo, cioè scusate, gli agrumi non hanno dentro solo vitamina C, ma dentro anche dei salicilati naturali, quelli che sono simili all'aspirina complessivamente, piccole quantità, e quindi vedi che abbiamo un frutto che sembra fatto apposta per difenderci tutto sommato dalle forme lievemente febbrili, dalle linee di quelle tre linette prenatalizie di Deborah. Esatto. Quindi tu lo sai già cosa devi fare. Senza niente panettone, abbiamo capito, insomma, allora, concentrato di... Noi invece dobbiamo andare a dare la linea con piacere al nostro GR, ritorniamo subito dopo. Con ricordatevi, tanti ascoltatori pronti. La ricetta che utilizzate per cercare di non ammalarvi, a tra poco. Radio 24 apre una finestra sui problemi quotidiani delle persone disabili. Sono cittadini italiani come tutti gli altri, ma spesso costretti a vivere in un mondo fatto solo per normodotati. Ci diciamo anche noi disabili, perché tutti abbiamo diritto alla socialità, a muoverci nelle nostre città, ad avere spazi accessibili, a non essere considerati cittadini di serie B. Segnalaci ogni disattenzione, sopruso, barriera architettonica o mentale che un disabile sopporta tutti i giorni. Scrivi a anche noi disabili @radio24.it oppure chiama il numero verde 800 00 2400 e noi ti daremo voce dai nostri microfoni. State ascoltando un programma offerto da Anima, miglior gestore fondi Italia Big 2015 secondo l'Istituto Tedesco Qualità e Finanza. Cuore e denari. Allora, io voglio la ricetta che voi utilizzate per difendervi dalle malattie da raffreddamento. Le chiamiamo così, dottor Speciani. Perfetto, in questo modo... Non è influenza, non sono le forme influenzali, malattie da raffreddamento. È molto importante perché potrete ricevere a casa il libro Controlla il peso e attivando il metabolismo del dottor Speciani. Ma, dottor Speciani, c'è una raccomandazione che lei vuole fare ai nostri ascoltatori che è motivata anche da dei dati scientifici, riguarda il consumo di frutta e verdura, una raccomandazione che fate sempre, ma soprattutto... Ma ecco, la cosa che io voglio rimarcare è l'aspetto educativo nei confronti dei propri mariti, mogli o figli o vicini di casa. E spiego in maniera sintetica. Allora, il problema delle epidemie influenzali è legato al fatto che il virus muti, cioè cambi, arriva e con una certa faccia, si chiama Giuseppe, e improvvisamente dopo un po' se entra in un organismo recettivo, che quindi non si difende, diventa Giuseppe A, cioè cambia un pezzettino, e a quel punto quel Giuseppe A ha molta facilità di diffondersi in maniera ampia. Questo avviene, e allora cosa significa? Significa che una delle parti, questo è uno studio ancora del 2001 sul FASEB Journal, in cui si studia come le persone che in realtà hanno dei deficit ad esempio di selenio, di vitamina C, di alcune componenti, in realtà sono dei recettori di virus dove nasce dentro di loro, quindi sono persone che non hanno mangiato frutta, verdura, non si sono tenuti educati e diventano una specie, in un certo modo, degli untorelli, cioè in realtà il fatto che una persona non abbia delle proprie difese facilita la mutazione del, del virus e quindi la diffusione a livello sociale. Per cui io devo dire che questo spunto, che non è solo quindi legato alla difesa, cioè io mi curo, mangio bene e quindi mi difendo, ma anche dal punto di vista sociale, sociologico, devo dire che secondo me se uscissero molte più pubblicità in questo momento legate al mangiare frutta e verdura, avremo un elemento di controllo, quindi con un'azione positiva che ha dei benefici non solo sulla diffusione delle malattie influenzali o parainfluenzali, ma anche su tutto il resto. Tantissimi messaggi. È vero. Iniziamo a sentire i nostri ascoltatori che sono in attesa, poi leggiamo naturalmente i messaggi che arrivano anche via WhatsApp. Sì, esatto, abbiamo questo nuovo canale di così ricezione dei messaggi da parte vostra. Così stiamo vicini vicini. Allora, esatto. Luciano, buongiorno da Verona. Benvenuto. Buongiorno. Luciano. Eccomi qua. Sì, buongiorno. Buongiorno. Ecco, io al primo posto metto ascoltare Radio 24 come ricetta. Due per... librini. Guardi, due. Sta già partendo già il libro. Il libro c'è già l'indirizzo sopra. Poi, secondo, ascoltare tutti i consigli del dottor Speciani, perché è una persona simpaticissima che ti dà sempre ottimi consigli. Sì. Terzo, io adesso sono in bicicletta, anche col freddo. Bravo. Perché comunque mi attiva tutto, dal cervello alla circolazione. Ti fermi lì. E mi fa produrre un sacco di endorfine. E quindi l'umore sale. E quarto? Esatto. E poi avere due figli scatenati come i miei, che ti fanno correre dalla mattina alla sera e ti tengono il metabolismo attivissimo. Allora, Luciano, gli regaliamo il nostro sponsor praticamente. Naturalmente gli facciamo ricevere a casa, gli facciamo mandare a casa a controllare il peso attivando il metabolismo. Certo. Vuole dare un consiglio a Luciano, naturalmente, poi di cui faremo tesoro tutti. Dottor Speciani? Sì, io direi che con un'azione di questo tipo, una vita molto attiva, una buona prima colazione, devo dire, rimane la base, l'abbiamo detto tante volte, e il rapporto con gli omega 3 che vengono dal pesce, dalle noci, dalle mandorle, quindi è una stagione adatta e ideale, quindi una persona che vada fuori al freddo e si esponga alle intemperie, così per dire, in realtà ha bisogno di questi supporti. Però così dalla voce mi sembrava una persona che probabilmente anche dal punto di vista qualitativo già gestisse una buona alimentazione. Piena di consapevolezza, che è brava. Un altro nostro termine che ci piace molto. C'è un messaggio che ci chiama, che ci manda Manu da Belluno. Un'ora all'aria aperta ogni giorno, apro comunque le finestre in casa. Frutta e verdura di stagione, eliminato cibi pronti, ma anzi tutto fatto in casa, e tanta positività. Fantastico. Una ricetta che naturalmente approviamo, dottor Speciani, a cui possiamo aggiungere, oltre che inviare il libro, perché così anche lei, Manu, sì, è contenta. Sì, sì. Ma io direi che questo elemento è un altro di quelli che merita una riflessione sociologica. Il fatto di fare da mangiare a casa, cioè di cucinare anche non tutto, ma alcune parti, alcuni spunti della propria alimentazione, riporta le persone ad una maggiore consapevolezza, diventa un passaggio di comunicazione, diventa un passaggio di una ricchezza che non è solo una ricchezza culturale, ma è poi una attivazione potente anche sul sistema immunitario. Anche perché la gente, quando inizia a cucinare e riesce a capire la qualità del cibo, poi per cucinare bene sceglie cibi qualitativamente migliori. Non torna più indietro, è vero. Allora, dottor Speciani, noi sappiamo bene che per rendere felice il nostro sistema immunitario dobbiamo far contento il nostro intestino. È così. Cioè, molto, no, della nostra salute, gran parte della nostra salute dipende proprio dalla salute di questo organo straordinario, di cui comunque la ricerca scopre sempre, no, nuove. Basta pensare, devo dire, al fatto che tutto quello che correla con l'infiammazione che nasce nell'intestino rispetto a quello che mangiamo o al fatto che noi non digeriamo, è una stupidaggine, come dicevano le nostre nonne, mastica più volte, che in realtà corrisponde ad un inizio di digestione, è oggi documentato in modo notevolissimo. Quindi il fatto di avere un intestino correttamente assorbente e una varietà alimentare a livello intestinale riduce l'infiammazione. Perché è importante, ne abbiamo parlato diverse volte, ma anche nei confronti del virus o di qualsiasi tipo, quando abbiamo, o di batteri, quando abbiamo un incontro, più facile durante i mesi invernali, ecco che se l'organismo è già infiammato e surriscaldato si ha il classico effetto goccia che fa traboccare il vaso. Quindi anziché avere un modesto senso di fastidio in gola con una reazione che passa in poche ore, in realtà uno si trova con un'enorme faringite, si trova con la tracheite, si trova con la febbre e così via. Quindi anche il controllo della parte infiammatoria intestinale è basilare da questo punto di vista per una difesa sensata. Emiliano da Cosenza e poi Giovanna dalla provincia di Modena, rapidissimi. Emiliano, buongiorno. Buongiorno a voi, velocissimo. Allora, la mia ricetta per stare bene durante una fase influenzale è bere tanto tè con dello zenzero che è stimolante e limone, poi mangiare molti agrumi, soprattutto in questo periodo mandarini e arance. E a proposito delle verdure, un richiamo anche nelle scuole, soprattutto io ho la fortuna, mio figlio piccolino di 4 anni e mezzo mangia di suo già le verdure, però gli ho insegnato a mangiare anche le carote, tante carote, e soprattutto la parte, diciamo, pulita del gambo del broccolo nero, che è buonissima. E vai Emiliano. Bravo. Ma qua si svolta. Buono. Allora il libro arriva. Un'unica integrazione, tè verde rispetto al tè nero contiene delle sostanze che hanno una capacità di combattere direttamente i virus H1N1 influenzali, tant'è che era uno degli elementi, sono studi scientifici che hanno fatto vedere quando stava arrivando la famosa suina H1N1, erano emersi tutti questi lavori. Quindi un suggerimento ad esempio di bilanciare il tè nero che probabilmente sta bevendo con del tè verde per migliorare la sua azione difensiva. Comunque bravissimo, bravo. Emiliano. C'è già un libro in arrivo a Cosenza. Sta volando. Esatto. Andiamo da Giovanna dalla provincia di Modena. Buongiorno. Buongiorno. Giovanna. Sono contenta di poter partecipare. Bene. Io volevo dire, sono d'accordo con tutto quello che hanno già detto gli altri. Però? Io dico la mia ricetta. Certo. In base. Allora, le 4 cose da fare: io prendo tutte le mattine un limone spremuto. Poi dopo faccio nella stagione invernale faccio frequentemente lavaggi nasali. Bene. Poi mi lavo spesso le mani, specialmente quando ci sono, c'è il pubblico, insomma, così. Ho fatto l'insegnante in un asilo. E poi dopo mangio sempre molto spesso frutta di stagione, le 5 porzioni, diciamo, ma tutta quella che mi va, ecco, perché certo. Fondamentalmente mangio frutta, perché deve essere anche un piacere sedersi a tavola. Di stagione e anche a chilometri zero. Allora, e le cose che non faccio, non fumo. Cerco di non vestirmi troppo, di non tenere il riscaldamento alto. Virtuosissima, le stende con in questo modo. Beh, è fantastica, veramente. Le malattie del raffreddamento scappano quando vedono Giovanna, osano, se la danno a gambe levate. È arrivata la Giovanna. Allora, e arriverà Giovanna il anche libro il del certo. dottor Speciani, che con cui cerchiamo di ritrovarci. Dobbiamo ritrovarci tra poco perché abbiamo tantissimi ascoltatori che ci scrivono. Naturalmente, vi invitiamo a mandare le vostre richieste alla nostra, al nostro indirizzo di posta elettronica Cuore Denari. Mi dica solo, rispondiamo solamente agli ascoltatori che ci chiedono, ma è meglio la verdura mangiarla cotta o cruda? C'è differenza? Si fa un po' come si vuole? Assolutamente, dal punto di vista degli apporti nutrizionali è quella cruda, non c'è ombra di dubbio, cioè la cottura tende a modificare. Siccome siamo umani e siamo in inverno, io credo che in questo momento un sano bilanciamento tra un po' di verdure cotte insieme a delle verdure crude sia il buon mix che ci fa fare una coccola tiepida insieme a qualcosa di salutare. Io sapete che sono sempre delle idee. Sì, di, perché il buon senso aiuta sempre, dai. Allora, dottor Speciani, ci sentiamo e ci vediamo tra poco. Troppo brave, ci scrive Roberto. Bravo, Roberto. Mandiamo il libro anche a lui. Mamma mia. È così sulla fiducia. La mia parte femminile, certo, è troppo brave, mi metto anch'io, va bene. Grazie, dottor Speciani. Grazie. Noi adesso abbiamo giocato d'anticipo, adesso parliamo di ritardi. Però prima di chiudere volevamo ricordare che oggi è una giornata importante per le donne, anche per quelle che viaggiano tanto. Sentiamo. Sono giorni che lasciano il segno, quelli che non vorresti mai. Sembrerebbe tutto normale, ma qualcosa è diverso. Anche Cuore Denari ha voluto ricordare e celebrare questa certo. giornata importante, no? Questo è il titolo del brano Perché di Alex Britti, che mette al centro un tema attuale molto delicato. La violenza sulle donne, che oggi proprio in occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne ci saranno iniziative in più di 1000 comuni, campagne di informazione, di sensibilizzazioni, treni in giro per l'Italia che porteranno nelle stazioni messaggi in musica. Tanto si è fatto e tanto si sta facendo. Ma l'importante, Deborah, è non abbassare la guardia, infatti. Diventare più consapevoli. Anche il presidente, educare e soprattutto insomma respingere in qualche maniera come si può anche questi gesti quando ce ne accorgiamo. Ecco, non c'è amore, qua chiediamo anche al dottor Speciani, non c'è amore là dove c'è violenza. Non possiamo, ogni donna deve... Devo dire sì, questo non c'è, anche quando le persone sono convinte che ci sia. Questi sono degli elementi che dal punto di vista psichiatrico sono connotati proprio come devianze dal punto di vista della percezione. Dove c'è violenza non c'è amore. Benissimo, grazie. Allora parlavamo di anche campagna di informazione, Nicoletta, dicevi tu prima che vedrà anche diversi treni in giro per l'Italia che porteranno nelle stazioni messaggi in musica. E allora adesso noi introduciamo il tema di denari che riguarda proprio i trasporti. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo da te. Restiamo a bordo del treno di Cuore Denari per parlarvi proprio di trasporto ferroviario. Lo faremo in questa seconda parte della nostra trasmissione. Innanzitutto vogliamo coinvolgervi chiedendovi se prendete il treno abitualmente. Raccontatecelo all'800 24 0024, segnalateci qual è la vostra tratta abituale. Vale anche un messaggio al 349 238 6666 che ci arriva anche su WhatsApp. Siete pendolari, viaggiate saltuariamente ma magari su lunghe tratte. In entrambe le situazioni vi sarà capitato di subire un ritardo, allora raccontateci qual è quello che vi ha coinvolti di più e non dimenticherete mai più perché, dove stavate andando, per quanto siete rimasti fermi e soprattutto che disagio vi ha causato. Avete perso un appuntamento importante sul piano lavorativo e personale, poi vi siete andati a lamentare con la società che gestiva, con la tratta che gestisce la tratta interessata. Noi ne parliamo perché da qualche giorno, precisamente dal 17 novembre scorso, sono entrate in vigore alcune novità nella procedura per chiedere rimborsi ed indennizzi in caso di ritardi e disagi. Trenitalia ha ridotto da 3 giorni a 24 ore il tempo per chiedere l'indennizzo per il ritardo o un eventuale bonus per mancata climatizzazione, perché anche questo è un tema importante. Ricorderete l'estate scorsa in quanti si lamentavano perché con il caldo allucinante di luglio i treni erano andati appunto in tilt. Adesso si gela. per quello che riguarda la climatizzazione. Io dico che preferirei la situazione estiva piuttosto che quella invernale, però ne parleremo tra poco con i nostri esperti rispondendo a tutte le vostre domande. Ma prima, lo sappiamo, affrontiamo un altro tema. Stiamo attraversando giorni delicati, vogliamo fare anche il punto della situazione sulle misure di sicurezza che si stanno mettendo in atto nel trasporto ferroviario alla luce dell'emergenza terrorismo. Cambia qualcosa nel nostro modo di muoverci? Ne parliamo con Franco Fiumara, direttore centrale protezione aziendale del gruppo Ferrovie dello Stato. Dottor Fiumara, grazie per aver raccolto il nostro invito. Buongiorno intanto. Grazie a voi, buongiorno. Grazie. Allora, il compito di gestire la sicurezza delle stazioni dei treni è naturalmente assegnato alle forze dell'ordine, ma Ferrovie dello Stato come sta collaborando a questo impegno che è certamente moltiplicato in queste giornate così calde? Noi lavoriamo insieme alla Polizia Ferroviaria in particolare, ma anche con le questure e le prefetture, quotidianamente a contatto. Sviluppiamo tutto quello che può servire a rendere più sicura la stazione. In questo senso abbiamo messo già varchi alle stazioni di Milano e Roma. I varchi hanno suonato come un deterrente contro il degrado, ce n'era parecchio, e sotto questo profilo i varchi hanno svolto e stanno svolgendo una funzione effettivamente valida. Si sono ridotti i reati di oltre l'80%, i passeggeri che accedono all'area sono sostanzialmente sereni, infatti negativi si contano sulle dita di una mano. La polizia, attraverso questa separazione delle due aree di stazione, riesce a controllare meglio gli spazi con le stesse pattuglie, con le stesse risorse. Certo, però dottor Fiumara, lei giustamente segnalava Roma e Milano al momento. Prevedete anche di estendere queste misure ad altre città, almeno alle più grandi? Sì, visti i risultati sì. Passeremo a Firenze, passeremo a Torino, passeremo a Venezia nel Fallo. Ovviamente è necessario il tempo di progettazione, di acquisizione autorizzazioni dalle soprintendenze, dai vigili del fuoco e quant'altro, e anche l'acquisizione del personale che viene formato per la gestione dei varchi. Certo. Dottor Fiumara, in questi giorni i tanti falsi allarmi si susseguono, no? Quali consigli possiamo dare ai nostri ascoltatori che si trovano a viaggiare sui treni italiani? A cosa è giusto fare attenzione? Cosa è giusto segnalare? Quali comportamenti sono invece un po' eccessivi e generano anche persino confusione? Facciamo un po' di lista di indicazioni di buonsenso. Sì, allora, non è mai abbastanza. No, non è mai abbastanza. Come le dicevo, i varchi servono a regolare meglio i flussi da e verso i binari. Su questo stiamo lavorando anche con una nuova disposizione stazione, un layout diverso degli spazi, delle self-service, delle obliteratrici e quant'altro. Le file poche e anche rapide che si creano ai varchi ci aiutano anche un po' a controllare i movimenti delle persone, aiutano la polizia a dare un'occhiata. Sotto questo profilo pregherei i passeggeri di pazientare qualche istante e di rispettare in maniera civile, lo fanno già, ma è un invito, non fa mai male, ulteriore, a rispettare la fila e a rispettare quello che gli dicono gli addetti. Gli addetti stessi sono molto attenti alle persone che transitano e che stanno in area di stazione. Qualche giorno fa a Termini, grazie a questo, con la polizia è stato individuato una persona di origini algerine con passaporto falso belga, è stato arrestato. Il controllo c'è e è molto forte. L'apprensione della gente anche, l'abbiamo vista crescere, ci chiedono ma siamo sicuri, andiamo tranquilli. E la tranquillità dei tempi, come dice il prefetto Gabrielli, di un giubileo ai tempi dell'Isis. Bisogna andare tranquilli, bisogna continuare a vivere, perché non si può fare nulla di diverso, è importante. Ma anche responsabilizzarsi un po', se magari si vede qualche atteggiamento un pochino, un po' così. Un atteggiamento strano o un bagaglio che sembra abbandonato, ma senza allarmarsi. Guardi, noi fin qua stiamo parlando, per fortuna, di falsi allarmi, perché tali sono stati testati. Tutte le segnalazioni la polizia va a controllare, certo. Va a controllare, eccetera. Un bagaglio fermo da qualche parte non è necessariamente un bagaglio sospetto, è un bagaglio che non ha un proprietario apparentemente. Certo. Il proprietario normalmente in questi giorni abbiamo visto è uscito all'arrivo della polizia, è venuto fuori e all'interno di questi bagagli c'erano sempre effetti personali banalissimi. Però no, è stata allarme. Perché sembra strano, ma c'è pure qualcuno che si dimentica la valigia da qualche parte quando viaggia. E conosco persone a cui è capitato. Esatto. La distrazione esatto, è l'ordine del giorno, siamo così stressati. Dottor Fiumara, sì. Uno dei consigli è quello: fate attenzione ai vostri bagagli che non suscitino allarme, perché magari li avete lasciati due minuti. Benissimo. E poi se ci sono dei controlli, insomma, teniamo magari i documenti a portata di mano, non indispettiamoci se qualcuno ci chiede una verifica in più. È anche corretto, appunto, che questi controlli un po' più a tappeto rispetto al passato vengano fatti. Dottor Fiumara, io intanto la ringrazio per essere stato con noi. Adesso c'è un passaggio di testimone fra gli ospiti di Casa Ferrovie dello Stato, perché dobbiamo salutare Giovanni Ferrari, responsabile delle conciliazioni di Trenitalia. Buongiorno, dottor Ferrari. Buongiorno, benvenuto. E poi saluto anche Bruno Albertinelli, responsabile trasporti di Federconsumatori. Buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, io li saluto per il momento e basta. Vado a raccontare la borsa molto velocemente. Voi così siete pronti, prontissimi. Ma il tema lo avete capito. Intanto questa parentesi sulla sicurezza ci sembrava doveroso farla, perché si viaggia anche un po' di più in questi giorni, magari con le vacanze. Molte persone torneranno dalla famiglia, nella casa d'origine, vedranno un po' più movimento sul fronte controlli, come dicevamo, quindi abbiamo spiegato anche perché. Però il tema dei ritardi non è legato dei treni, naturalmente non è legato alla situazione di maggior richiesta di sicurezza di questi periodi, sono problemi abbastanza noti per quello che riguarda il nostro paese. Abbiamo delle nuove procedure di indennizzo per chi subisce questi ritardi e magari deve stravolgere la propria giornata a causa di questo. Ne parleremo tra poco, dopo le informazioni della borsa. A tra poco. Investi in fondi? Solo con Online Sim scegli tra oltre 4.000 fondi a zero commissione di ingresso. Vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Anima, miglior gestore fondi Italia Big 2015 secondo l'istituto tedesco Qualità e Finanza. Cuore e denari. Prendo di corsa un cappuccino caldo nel bar della stazione. Prima di salire sul vagone suona l'altoparlante, la sua voce indifferente che annuncia il solito ritardo. Guardo la. E allora si può chiedere già dopo 24 ore l'indennizzo per un ritardo, un disagio dovuto alla climatizzazione su una tratta Trenitalia. E questo è il tema che stiamo affrontando questa mattina, ma non c'è solamente questa come condizione per chiedere l'indennizzo per un ritardo. Allora ci stanno, non abbiamo ancora iniziato, ma ci spiegheranno tutti Giovanni Ferrari, responsabile delle conciliazioni di Trenitalia, e Bruno Albertinelli, responsabile trasporti di Federconsumatori. Chiaramente vorremmo arricchire la nostra trasmissione con le vostre testimonianze, siamo certe che non mancheranno all'800 24 00 24. Intanto, dottor Ferrari, che cos'è il servizio conciliazione di Trenitalia? Buongiorno, la ringrazio dell'invito e della domanda. Si tratta della possibilità per i clienti che abbiano fatto un reclamo e abbiano ricevuto una risposta che ne ritengono non soddisfacente, di chiedere il riesame della loro pratica da parte della commissione di conciliazione paritetica. Sostanzialmente viene ripreso il caso e due conciliatori, uno dell'associazione dei consumatori e uno di Trenitalia, lo riesaminano secondo criteri di equità, formulando una proposta al cliente. Il cliente può accettarla o non accettarla. La procedura si conclude generalmente in 35-40 giorni e riscuote un gradimento da parte della clientela del circa 90%. Certo, perché c'è adesso un interlocutore al quale rivolgersi qualora appunto si scateni un po' un contenzioso, una conflittualità, come è normale che possa capitare con un'azienda di qualunque tipo. Invece vado a Bruno Albertinelli, responsabile trasporti di Federconsumatori, perché prima di iniziare a spiegare con l'aiuto di Giovanni Ferrari come funzionano le nuove modalità di rimborso, volevo chiedere: il tema dei ritardi viaggiando molto per i cittadini è un problema quanto rilevante secondo dei vostri monitoraggi? Noi ogni tanto organizziamo delle puntate, problema vistosissimo per le tratte locali e regionali, lo sappiamo, ma in termini complessivi nel tessuto italiano, dottor Albertinelli, appunto, quanto si lamentano i consumatori? Cosa ci può dire a proposito? Ma credo che la maggioranza dei reclami, quindi facciamo ragionamento intorno a un 80-90%, che poi la maggioranza dei reclami, se vogliamo, passa dal percorso di conciliazione che spiegava prima il dottore, a un percorso che fanno in particolare i comitati dei pendolari che sono presenti in tutte le regioni, in tutte le province. Se uno va a vedere la lamentela più presente, uso questa espressione, proprio la mancanza di regolarità del trasporto su rotaia, e poi il ragionamento, anche se vogliamo, del caldo e del freddo rispetto alla stagione che uno sta vivendo. Quindi il ritardo è di fatto una concezione molto pesante, molto sentita, molto, come si può dire, portata come reclamo in tutti i modi possibili e immaginabili da chi viaggia. Allora, ogni mese la mia tratta è Roma-Torino per poi prendere il TGV Torino verso Parigi. Un vero peccato che Roma non sia collegata direttamente a Parigi via treno, ci racconta questo ascoltatore. Quindi qua non si lamenta di un ritardo, si lamenta per la mancanza di un'altra, vabbè, di un'altra cosa, ma magari ci si penserà in futuro. Dottor Ferrari, allora andiamo al tema di oggi. In quali situazioni è previsto da Trenitalia un indennizzo per i ritardi? Ci andiamo subito a spiegare ai nostri ascoltatori che avranno drizzato le antenne, soprattutto se loro malgrado capitano ogni tanto in queste condizioni, appunto in queste situazioni che ovviamente non li metterà particolarmente di buon umore. Guardi, innanzitutto devo fare una premessa che l'incidenza dei ritardi, seppur episodi ovviamente spiacevoli per la clientela che con l'orologio penso di arrivare al minuto esatto perché quello è l'orario del treno, nonostante sia spiacevole, l'incidenza è fortunatamente per tutti abbastanza limitata. Abbiamo indici di puntualità del 98%, comunque dal 95 al 98%. Cosa accade in caso di ritardo? Stiamo parlando delle frecce, naturalmente, dottor Ferrari. Stiamo parlando delle frecce, ma anche del trasporto regionale in generale. Adesso io non ho chiaramente i dati sotto mano, però in sostanza lei dice molto alto l'indice di puntualità. Annualmente gli indici sono molto molto alti. Poi torno a dire, è sempre spiacevole il ritardo per il singolo cliente che lo vive. Che lo subisce. Cosa accade in caso di ritardo? Noi abbiamo recepito sin da subito il regolamento europeo il 1371 del 2007, il quale prevede che in caso di ritardo in arrivo a destinazione è previsto un indennizzo. Se il ritardo è superiore a un'ora, l'indennizzo è del 25%, se è superiore a due ore è del 50% rispetto al prezzo del biglietto. In più, recentemente per le frecce abbiamo introdotto come iniziativa commerciale autonoma di nostra iniziativa l'indennizzo dopo 30 minuti di ritardo. Questo preciso in bonus, perché sopra l'ora il regolamento europeo prevede la possibilità per il cliente, a scelta del cliente, di chiedere o un bonus da riutilizzare per un altro viaggio o in denaro. Invece per le frecce dai 30 minuti ai 60, ai 59, essendo un'iniziativa commerciale, l'abbiamo provvista solamente come bonus sull'acquisto di un altro biglietto. Chiaro. Esatto. Bene, allora, quindi quali sono quindi le novità rispetto al vecchio sistema di indennizzare i consumatori, dottor Ferrari? La modalità di richiesta, qual è la novità? Allora, non tanto la modalità di richiesta, che poi l'illustro perché è da sempre molto semplice, molto spedita, ma è più che una novità, è un traguardo che abbiamo raggiunto, cioè noi da un po' di mesi, da circa un anno, abbiamo implementato e migliorato i sistemi di vendita e di assistenza alla clientela, per cui abbiamo compresso moltissimo il tempo necessario per l'erogazione. Mi spiego meglio. Nel passato, qualche anno fa, erano necessari 20 giorni perché i sistemi dovevano importare i dati dal gestore dell'infrastruttura. Avendoli ottimizzati, adesso riusciamo a fare questa importazione molto celermente. Fino a poco tempo fa era erogabile l'indennizzo dopo 3 giorni, da appunto, come scritto, come è stato presentato, da 15 giorni dopo 24 ore. Per cui il cliente scende dal treno in ritardo, speriamo di no, speriamo che questo non accada. Esatto, intanto speriamo. Speriamo che non accada, o accada pochissime volte, scende dal treno e praticamente dopo 24 ore può già ottenere l'indennizzo se spettante. Noi abbiamo anche semplificato le modalità, perché il cliente, se è registrato, se un cliente è registrato al nostro sito, può accedere direttamente alla propria area clienti e cliccando, cioè individuando il viaggio a cui si sta riferendo, apre un link diretto che gli indica se ha diritto o non ha diritto al bonus. Se invece il cliente non è registrato per qualunque motivo, insomma non è necessaria la registrazione, può rivolgersi a una qualunque biglietteria di Trenitalia o all'agenzia di viaggio di Trenitalia dove ha acquistato il biglietto. Però faccio presente che abbiamo circa 7.000 agenzie di viaggio sul territorio nazionale, o chiamare il call center, e quindi può verificare il diritto a questo indennizzo e ottenerlo anche dopo 24 ore, perché l'indomani. Benissimo. Praticamente. Allora, tra qualche mese faremo, dottor Ferrari, magari un punto della situazione per verificare quanto funziona questo nuovo sistema, sperando naturalmente che pochi viaggiatori abbiano avuto bisogno di fare richiesta di bonus e di indennizzi. Allora, noi abbiamo adesso i suggerimenti per chi è in viaggio, ma in auto, però magari Tiziana da Milano la sentirei, Nicoletta, ma volentieri. Se sei d'accordo. Tiziana, buongiorno. Buongiorno a tutti. Io viaggio spesso in treno e devo dire che purtroppo spesso anche i treni, anche le frecce sono in ritardo, ma volevo condividere con voi questa allucinante esperienza di domenica sera. Avevo trascorso un weekend a Venezia con il mio compagno, dovevamo rientrare, abitiamo dopo Treviso, siamo arrivati in stazione alle 21, Venezia Santa Lucia, quindi già un posto dove ovviamente tutti ci arriviamo con il treno. C'era stato un gravissimo problema sulla tratta Treviso con Emiliano, quindi c'erano ritardi, cancellazioni, ma il problema vero è che fino alle 11:30 era un susseguirsi di ritardi che cambiavano, di treni che poi venivano prima messi in ritardo, dopo annullati. E per capire come riuscire, visto che appunto si avvicinava ormai la mezzanotte, come riuscire ad avvicinarsi a casa, vi siete incamminati. Abbiamo dovuto chiamare i carabinieri, perché in stazione non c'era nessuno era in grado di dare informazioni, c'erano anche dei gruppi che incominciavano ad essere anche abbastanza violenti. Tiziana, non eravate certo in un paese sperduto della giungla, no, naturalmente, no, Venezia ha ragione, però, anche obiettivamente, però certo. Obiettivamente, insomma, l'ora si faceva veramente molto tardi. E la cosa incredibile. Come ha risolto, Tiziana? Ci dica. Abbiamo risolto che poi abbiamo scoperto, grazie ai carabinieri, che c'era un pullman sostitutivo di un treno che partiva dal piazzale Roma a 3:04, e quindi l'abbiamo preso praticamente per un soffio. Ma quel poco personale ferroviario, persino la polizia ferroviaria, brancolava nel buio come voi. Ecco. Esatto. Chiarissimo. Grazie, Tiziana. Suggerimenti per chi in viaggio, questo caso insieme ad altri, commentiamo dopo. Nuova Audi A4. Scopritela negli showroom Audi e su audi.it. Vi presenta Cuore e denari. Ormai è tardi. Allora, con chi cominciamo? Albertinelli, Federconsumatori, come commentiamo il caso dell'ascoltatrice di Venezia? Adesso, a prescindere dal ritardo, un fatto grave. Purtroppo, guardi, proprio una mia amica qualche giorno fa stava viaggiando su una tratta toscana ad Orbetello, una persona si è buttata sulle rotaie. Vabbè, che lì tragedia. Ci sono. Esatto, capita, è chiaro che lì si arresta tutta la circolazione, cosa puoi fare? Sono fatti particolarmente drammatici. Detto questo, però, forse l'ascoltatrice ha ragione quando dice che magari può anche starci che per 20 minuti il personale non sappia bene come gestire la faccenda, ma dopo 2 ore e mezza a Venezia forse non è più tanto accettabile. Che ne pensa? Penso che abbia completamente ragione. Il fatto che ci sia una società che abbia una Ferrari, uso questa espressione, come quella che è la considerata l'alta velocità, che viaggi in maniera incredibile, dia risposte soddisfacenti alla maggioranza delle persone che viaggiano, dall'altra parte però c'è una mancanza proprio di struttura che sia in grado di gestire anche gli incidenti anomali, uso questa espressione, come quello della persona che si è buttata sotto il treno. Credo che ci sia un sistema ormai informatico, il telefono, i pannelli lumi, cioè tutto l'immaginabile possibile che c'è in questo mondo dal punto di vista di tecnologia, e credo che Trenitalia debba quanto prima risolvere i problemi di un'informazione tempestiva alle persone, perché sennò chiaramente le persone sono abbandonate a se stesso. Il fatto che si siano dovuti rivolgere ai carabinieri è emblematico. Cioè io compro un biglietto non dai carabinieri, non sono i carabinieri che mi fanno viaggiare, è un servizio privato, un servizio pubblico, ci deve essere una risposta soddisfacente e questo servizio deve essere più che soddisfacente alle persone che viaggiano. Adesso vi faccio ascoltare anche il caso di Antonio da Napoli, ma devo consentire la replica anche a Giovanni Ferrari di Riconciliazione di Trenitalia. Le facciamo scrivere dall'ascoltatrice che ha avuto questa disavventura domenica sera, dottor Ferrari. Può esperire questa strada? Può utilizzare questa modalità per chiedere di essere in qualche maniera così indennizzata, risarcita per il disagio che ha subito domenica scorsa? Guardi, sull'evento di domenica scorsa lei mi prende in questo momento sprovvista, non posso rispondere. Teniamolo in termini generali, ci mancherebbe altro. Può, non so dirle se può chiedere la conciliazione o meno, perché la conciliazione è presente per i treni, per la divisione long haul, cioè per i treni di lunga percorrenza. Sì. Laddove l'evento che mi riferisce, ma che in questo momento ignoro, mi riservo però... No, ma ci mancherebbe di andarlo a verificare. Se poi la cliente vuole comunque chiamarmi o mettersi in contatto per consentire le ricerche, laddove l'evento fosse riferito alla divisione trasporto regionale, la divisione non ha al momento adottato la conciliazione paritetica, per cui non so se posso ammetterla in conciliazione. In ogni caso basta che scriva come reclamo anche a me. Esatto, intanto il reclamo normale, esatto. Approfondiamo e sarò sicuramente... mi farà sicuramente piacere chiarire e vedere quali sono i percorsi, certo, che possono essere seguiti. Ma a prescindere, ecco, da quello che può fare l'ascoltatrice, lei che cosa ne pensa di questa situazione di emergenza della quale il personale lì non era in grado di rispondere? Guardi, che può essere umanamente come dire comprensibile, no? Perché chiaro, domenica sera, sì, se due persone sta lì di turno. Assolutamente sì. Noi, quando capitano questi eventi come Trenitalia, sia le due divisioni passeggeri, sia la divisione lunga percorrenza sia la divisione regionale, è assolutamente dispiaciuta di questi eventi e facciamo sempre il possibile e l'impossibile talvolta per accelerare le soluzioni. Bisogna però comprendere che il meccanismo ferroviario è estremamente complesso. A volte ci si chiede perché per un evento che può essere malauguratamente qualche persona che utilizza il treno in modo improprio, buttandosi sotto il treno, o un passaggio a livello che viene ingombrato da un camion o da una macchina che provoca un investimento. Cioè, diciamo in generale, quando si verifica un'interruzione di linea, i rimedi, i sistemi per poter sbloccare la soluzione, la situazione non sono... sono velocissimi dal punto di vista della gestione, perché noi abbiamo delle sale operative presenziate 24 ore su 24, sia noi come Trenitalia, sia il gestore della rete ferroviaria italiana, che è appunto la società RFI. Le sale operative sono presenziate 24 ore su 24. C'è un'organizzazione di persone reperibili sul territorio che sono o presenti o intervengono nell'immediato, però il sistema è molto complesso. Muovere un treno, recuperare dei bus, far giungere dei bus sostitutivi di notte o magari quando, certo, capitano eventi di maggiore entità, non si tratta di far venire un autobus o due autobus, ma 10-15 autobus. Lei pensa che un treno generalmente trasporta tra 400-500 persone. Organizzare un trasbordo su autobus per 500 persone vuol dire reperire nell'immediato 10 pullman. Abbiamo capito, dottor Ferrari, purtroppo devo concludere. Certo. Non per diminuire la gravità dei ritardi che devono sopportare, ma per far capire che tutto quanto che si fa nell'immediato, l'assicuro nell'immediato, comporta dei tempi organizzativi evidentemente sì, però almeno l'abbiamo spiegato agli ascoltatori. Insomma, hai sentito come si è accalorato il dottor Ferrari, che voleva spiegare naturalmente quali sono le procedure che devono scatenarsi quando si verificano eventi straordinari. Allora, avremmo voluto parlare anche degli indennizzi che valgono per i disagi legati alla climatizzazione in caso di mancato funzionamento dell'impianto di condizionamento nella vettura in cui il viaggiatore ha un posto a sedere. Il bonus è pari al 25% del prezzo del biglietto. Anche in questo caso, trascorse 24 ore dal viaggio fino ai 12 mesi successivi, il viaggiatore può rivolgersi a biglietteria, agenzie di viaggio, call center e naturalmente fare tutte le procedure necessarie per chiedere il bonus, l'indennità di ritardo. Non ho altro tempo purtroppo, ma magari ci ritorneremo su questi argomenti facendo un punto della situazione sulle nuove procedure di indennizzo con Bruno Albertinelli di Federconsumatori e Giovanni Ferrari del servizio conciliazione di Trenitalia. Grazie a tutti, a domani, buona giornata.